Emozione sono i tuoi frastuoni mentre leggendo questa lettera starei già piangendo, perché non ti sto dicendo addio, ma per sempre, se per sempre è quello che intendo, e intendi te, forse normalmente. Sarà questione di un passo, di due e ci baceremo, forse per un giorno, due, tre, o forse per l'eterno.